Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio che ricomincia oggi una nuova settimana insieme a voi. È lunedì e ormai, come sapete, da luglio ogni lunedì abbiamo un appuntamento fisso, quello con le guide pratiche del Sole 24 Ore del lunedì. La guida di oggi entra di sicuro di prepotenza nelle case di voi tutti, perché il tema affrontato è quello della, in termini molto generali, la bolletta, da quella del telefono a quella di luce e gas. Appuntamento con queste scadenze fisso ogni mese o al massimo ogni bimestre. Il tema è al centro della guida del Sole di oggi perché approfondisce un aspetto particolare sul quale negli ultimi anni si è notevolmente rafforzata l'attenzione dei consumatori, vale a dire quella del cambio di operatore, di gestore o fornitore, chiamatelo come volete. Cambiare utenze, questo è il titolo delle istruzioni per l'uso di oggi, che offrono come sempre l'opportunità, la guida di oggi offre come sempre l'opportunità di inviare dei quesiti ad un gruppo di esperti messi a disposizione dal Sole 24 Ore. I quesiti possono essere inviati al sito www.ilsole24ore.com/cambiare operatore, seguendo poi le istruzioni riportate. Sulla guida di oggi ci sono tante indicazioni utili, concrete, pratiche, molto interessanti. Ci sono le regole di base per fare appunto il passaggio di fornitura o di gestore se si tratta di un operatore telefonico, le criticità dei subentri, come fare il reclamo, cosa sapere prima di avviare una pratica per cambio operatore o cambio fornitore. Allora, anche noi stamattina vi chiariremo, speriamo, un po' le idee, parleremo sia del cambio di bolletta di luce e gas, sia del cambio di operatore telefonico, sia che si tratti di un abbonamento ad una rete fissa, sia che si tratti dell'abbonamento appunto ad una rete mobile. Allora, Rossella Cadeo ha curato il dossier. Rossella, ciao, bentornata a Salva Danaio. Grazie, ciao e buongiorno a tutti. Io intanto mi sono persa la penna, adesso la troverò, prima o poi uscirà, e poi eccola qua. E saluto il dottor Enrico Maria Cotugno, membro della direzione tutela dei consumatori dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ufficio controversie e sanzioni. Dottor Cotugno, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E poi abbiamo con noi anche l'autorità per l'energia elettrica e il gas, la dottoressa Gabriella Utili, responsabile unità informazione e tutela dei consumatori. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Anche a lei, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io so per certo che questo è un tema che vi piace. Ogni volta che abbiamo fatto per esempio il passaggio il cambio di fornitura per quello che riguarda l'erogazione di energia elettrica vi ha sempre molto appassionato, appunto l'argomento, siete intervenuti sempre molto numerosi, potete continuare a farlo anche oggi all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666 per raccontarci cosa vi è successo quando avete cambiato abbonamento telefonico oppure la fornitura di energia, e magari cercheremo di capire se il vostro caso rappresenta un caso anche che rientra nell'ambito di tutti i casi che si verificano in Italia. E allora, prima di cominciare però su questo argomento, la borsa che stamattina è moderatamente positiva, l'avete sentito anche nel giornale radio, più 0,17% in questo momento per Parigi, Francoforte più 0,19%, Londra più 0,19%, Milano più 0,17%. È abbastanza probabile pensare che l'andamento dei listini del vecchio continente oggi rimarrà tale fino alla chiusura, perché è chiusa Wall Street per il Columbus Day. Stamattina non abbiamo avuto il contributo di una grande piazza asiatica, non abbiamo avuto il contributo appunto del Giappone, chiusa per festività. In compenso le altre borse dell'Asia, Shanghai e Hong Kong, hanno chiuso con rialzi piuttosto vistosi. La borsa di Hong Kong sta sui livelli massimi degli ultimi 28 mesi, quella di Shanghai negli ultimi 5 mesi, per cui ancora dall'Asia continua ad arrivare questo vento di recupero sul mercato azionario, che incide poi relativamente, per la verità, nelle altre parti del mondo finanziario. A Milano stamattina si punta su Exor e su Fiat, più 3,27% e più 1,43% rispettivamente, perché il mercato si sta interrogando sulle indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni in base alle quali il quartier generale del Lingotto starebbe studiando l'eventuale conversione delle azioni di risparmio privilegiate di Fiat in titoli ordinari. Bulgari più 3, Geox più 1,75 in ribasso, in pregilo che perde quasi un punto, Parmalat meno 0,6, UbiBanca e Monte dei Paschi in ribasso di oltre mezzo punto percentuale. Euro su dollaro a 1,3944 stanotte. Lo yen ha schiacciato ancora il dollaro, sempre confermando questi massimi da 15 anni a questa parte. Petrolio fra gli 83 e gli 84 dollari al barile. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di cambio bolletta. luce, gas, internet, telefono fisso o cellulare. Anche i gesti più semplici della nostra vita quotidiana hanno un prezzo. E l'arrivo della bolletta è spesso causa di preoccupazioni e scoraggiamenti. Ancor più quando, con il moltiplicarsi di offerte e tariffe, non si è sicuri di aver firmato il contratto migliore. Come ottenere il massimo risparmio? In molti casi scegliendo di cambiare. Non per forza sacrificando le proprie esigenze e trasformando radicalmente le abitudini. Basta cambiare operatore. Fino ad oggi l'ha fatto l'11% degli utenti per l'energia elettrica e il 7% per il gas. Senza contare che dal 2002 sono stati più di 25 milioni i numeri di cellulare spostati su un nuovo gestore. Purtroppo il passaggio non è sempre privo di rischi e insidie. Allettanti controproposte che non lasciano il tempo per riflettere, ritardi nelle bollette e linee che non vengono attivate, penali di recesso mascherate da debiti spese, nonostante la legge Bersani del 2007 le abbia abolite. L'importante per il consumatore è non demoralizzarsi, prevenire i tranelli e conoscere i propri diritti. Alla base della liberalizzazione di questo mercato dovrebbe esserci proprio la semplicità del passaggio, tempi brevi e prestabiliti, pochi disagi e perdite di tempo. Ricordando sempre che il primo passo è mettersi in contatto con la nuova società scelta, lasciando che sia quest'ultima a gestire tutta la procedura. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate. Devo dire che i primi interventi sono già focalizzati sull'ambito telefonico e ci piacerà molto. Tra l'altro un tema che affrontiamo un po' meno spesso a Salvadanaio, sicuramente le bollette di energia e gas negli ultimi anni le abbiamo guardate con un po' più di frequenza perché stava correndo il prezzo del petrolio e quindi in qualche maniera questa spesa fissa per le famiglie si è alternativamente prima incrementata, poi è ritornata a scendere, per cui l'abbiamo guardata con un po' più di attenzione. Forse il telefonino, Rossella Cadeo, non va più di moda, ce ne occupiamo un po' meno, però in realtà anche lì c'è molto movimento tra le famiglie che accusiamo sempre di essere pigre perché se non sono soddisfatte per esempio del rapporto con la banca non la cambiano. In realtà con il telefonino sono un po' più infedeli. Sì, c'è molto dinamismo diciamo nel settore della telefonia, sia nella telefonia che riguarda la rete fissa, sia per quanto riguarda i cellulari. Dall'ultima relazione dell'Agicom sono uscite le cifre di questo dinamismo, parlano di 24 milioni di utenti che hanno cambiato dal 2002 al 2010, nella rete fissa abbiamo avuto da gennaio 2009 ad agosto 2010 270.000 migrazioni, 1,5 milioni di attivazioni, abbiamo nuovi concorrenti, ci sono nuove possibilità sul mercato di trovare delle tariffe più adatte al proprio profilo di utente, ai propri consumi, c'è chi preferisce magari avere una linea che gli permetta di utilizzare senza problemi internet, mm-hmm. quindi con tariffe flat per quanto riguarda la rete fissa, ci sono nuove formule per i cellulari, quindi le possibilità di scelta ci sono anche dei dispositivi che dovrebbero assicurare una certa fluidità in questo passaggio, come il PIN, questo codice di migrazione nella telefonia fissa, e i tempi limitati appunto a 3 giorni per quanto riguarda i cellulari, quindi è logico che l'utente di TLC tenda a muoversi. Certo, un po' più complicato, questo lo abbiamo verificato anche proprio sperimentandolo sul campo con le testimonianze dei nostri ascoltatori, il passaggio invece al mercato libero per quello che riguarda l'energia elettrica domestica, per l'utenza domestica. E allora sentiremo poi, ripercorreremo un po' le criticità anche con i nostri esperti e anche con gli ascoltatori. Volevo però per un attimo rimanere sul tema della telefonia, coinvolgendo il dottor Enrico Maria Cotugno, lo ripresento, membro della direzione tutela dei consumatori dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, perché lo abbiamo letto nei giorni scorsi anche sul Sole 24 Ore, di recente è arrivata una nuova raffica di sanzioni agli operatori telefonici, l'ultima battaglia riguarda i costi di recesso, cioè quelli che si pagano per chiudere un rapporto con l'obiettivo di avviarne un altro. Dottor Cotugno, qual è il punto della situazione? Non dovrebbero essere fatti pagare questi costi di recesso, oppure avete calcolato che sono troppo onerosi? Che cosa contestate agli operatori? Tanto per capire anche magari quando un utente si trova una richiesta di questo tipo, come si deve comportare? Sì, no, come la legge Bersani prevede che gli operatori, in caso di recesso anticipato da parte dell'utente, quindi deve essere anticipato, poi vediamo invece nel caso del recesso a scadenza, possono far pagare solo i costi giustificati dalla gestione del recesso. E quindi noi come autorità stiamo valutando tutti i costi che gli operatori hanno messo nei propri contratti per verificare se effettivamente coincidono con quelli che sono i costi giustificati. Nel caso di specie, quello che anche voi avete riportato sul Sole 24 Ore, l'operatore addebitava dei costi appunto per recesso non giustificati, assolutamente non giustificati dalle attività invece sottostanti alla semplice gestione del recesso. Quando invece il cliente recede a scadenza, in quel caso ovviamente nulla è dovuto, quindi neanche i costi di recesso. Di recesso. Quindi insomma ancora state tentando di sgombrare il campo, di fare ancora maggior chiarezza su questo aspetto che sta generando un po' di confusione, perché il tema è un po' come succedeva per i mutui. È intervenuta la legge Bersani, mi hanno detto che la penale di recesso o di estinzione anticipata non devo più pagarla, per la verità poi ci sono dei costi vivi, adesso chiamiamoli così, che la banca sostiene, che in qualche maniera invece devono essere poi riversati sul consumatore, quindi bisogna essere molto chiari su questo. L'autorità per le comunicazioni sta ancora lavorando. Dottoressa Utili, io devo andare già in pausa, non posso cominciare a sentirla sul tema di energia e gas, allora per non fare un discorso troppo breve e inutile la coinvolgo subito dopo il nostro break pubblicitario. Alla ripresa ci sono già degli ascoltatori in attesa, Ernesta da Imperia e Carlo da Milano, e allora un minutino di pazienza, torniamo tra pochissimo. Salva Danaio ritorna all'appuntamento del lunedì, quello realizzato con la collaborazione del Sole 24 Ore del lunedì, la guida pratica. Siamo all'edizione numero 17 settimane di guida. Oggi ci si occupa del cambio bolletta, sia per quello che riguarda la fornitura di energia e gas, sia per quello che riguarda l'abbonamento al telefonico. Un trasloco di bollette senza intoppi, si intitola il dossier di oggi. In caso di passaggio spetta al nuovo operatore energetico o telefonico farsi carico della pratica di recesso. Nella teoria tutto molto facile, Rossella Cadeo, nella pratica gli intoppi sono parecchi, e allora per tutti coloro che avessero vissuto situazioni di intoppo, voi avete messo a disposizione come sempre un bel gruppo di esperti per rispondere a tutti i quesiti dei lettori. Sì, e domani ci saranno su Sole 24 Ore le risposte alle domande dei lettori che vogliono oggi scrivere fino alle 18 all'indirizzo che abbiamo dato sulla guida cambiare utenze. L'indirizzo, lo ripetiamo, è www.isole24ore.com/cambiare operatore. Si possono porre quesiti di carattere generale che possono anche interessare una platea più vasta di utenti, e i primi quesiti saranno pubblicati sul Sole di domani. Da mercoledì invece le risposte appariranno sul sito del Sole. Esattamente come per Salva Danaio questa mattina, le domande possono riguardare il passaggio al libero mercato, la bolletta bioraria, un altro bel tema che abbiamo affrontato tante volte, i disservizi in materia di cambio venditore di luce e gas, il cambio di gestore mobile, il cambio nella rete fissa, i disservizi nel cambio dell'operatore telefonico. E al settore telefonico abbiamo dedicato già la prima parte di Salva Danaio, andiamo adesso al cambio di utenza, al cambio di fornitura di energia o gas. Sentiamo la domanda di Carlo da Milano per poi interpellare l'autorità del gas e l'energia. Carlo, buongiorno, cosa le è successo? Buongiorno, riguardo al tema dalla puntata, io ho, per motivi personali, ho chiesto il cambio di intestazione della bolletta di Enel Energia da me a mia moglie a novembre del 2008. Mi hanno fatto la chiusura del mio conto, no? Ho saldato il tutto. Mia moglie non riceve una bolletta dalla fine del 2008, nonostante ripetuti solleciti ai call center di tutta Italia, fax uno dietro l'altro, l'ultimo l'ho fatto questa primavera, ci siamo stancati. Allora, io mi domando, se non riescono a prendere i soldi da chi vuol pagare? Esatto, dove devono cercarli? Carlo, la ringrazio, esula un po' il suo caso dal tema di oggi, perché non ha chiesto un cambio di fornitore, e però questa magari è una situazione tipica e ascrivibile ad altre categorie di disservizio. Magari ci ritorniamo fra un attimo, Carlo, però vorrei interpellare la già più volte preannunciata dottoressa Gabriella Utili, responsabile unità informazione e tutela dei consumatori dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Mercato dell'energia domestica liberalizzato dal 2007, passaggio da un operatore ad un altro per le famiglie italiane, che poteva essere forse un po' più come dire praticato, no? Un po' di pigrizia l'abbiamo vista, ma io direi che più di pigrizia qualche volta si tratta un po' di scoraggiamento, perché non è facile anche qua avventurarsi nel cambio operatore. Qual è oggi la situazione, dottoressa Utile, che ci può portare, e dal suo punto di vista, del suo osservatorio, quali le criticità ancora maggiormente diffuse? Sì, buongiorno. Effettivamente, diciamo, i clienti tendono ad essere un po' conservativi, perché un po' temono, diciamo, di andare incontro a dei servizi cambiando fornitore, anche se le regole sono abbastanza semplici, nel senso che per cambiare fornitore serve semplicemente individuare un'offerta o trovare un fornitore che è di interesse seguendo la pubblicità, e firmato il contratto si affida al nuovo venditore scelto il proprio recesso dal venditore precedente, e il venditore fa tutte le cose. L'importante è che a cambiare fornitori sia lo stesso intestatario di contratto che aveva prima il contratto precedente, perché diciamo, per la velocità della procedura è legata al fatto che sia lo stesso cliente che cambia il fornitore, che quindi non ci siano poi intoppi, perché i soggetti sono diversificati. Il recesso, quante volte si può cambiare fornitore? Tutte le volte praticamente che si desidera, nel senso che il recesso è un mese con un mese di preavviso, e è differente rispetto a quello che abbiamo sentito dal collega di telecomunicazioni, perché il cliente può uscire appunto in qualsiasi momento dando questo mese di preavviso e cambiare fornitore. Mese di preavviso per il cliente domestico sono 3 mesi per la piccola e media impresa. Per la clientela industriale. Esatto. Entro quanto tempo il gestore appunto deve accontentarci in questa richiesta? Perché anche qua si è scatenata, non polemica, però insomma un po' di conflittualità, non c'è certezza, diciamo, del subentro. Esatto, i tempi tecnici sono comprensibili del fatto che nel momento in cui il cliente firma il contratto ha comunque 10 giorni di tempo per ripensarci, quindi il venditore nuovo aspetta comunque questo tempo prima di procedere con le pratiche. In media dovrebbero essere 2 mesi. Da gennaio le cose potrebbero cambiare ulteriormente in meglio, perché gli operatori dovranno fornire nuove regole di certezza sul cambio, se non ricordo male, dottoressa Utili. Esattamente, al momento della firma del contratto il venditore nuovo deve indicare da quando parte effettivamente il servizio, perché non parte alla firma del contratto ma parte quando avviene il passaggio tecnico, quindi la data in cui il cliente verrà servito da lui. Se questa data viene per qualche motivo modificata, perché c'è un intoppo nel sistema, diciamo, il venditore è tenuto a informare il cliente che ha appena sottoscritto il contratto che questa data indicata sul contratto scivolerà in avanti e di quando. E questo è un passaggio che ritengo molto importante, perché in questo momento non c'è questo obbligo di comunicazione, di intoppo della pratica, chiamiamolo così, e questo appunto genera a volte anche un po' di come dire incertezza della clientela, che magari pensava di aver fatto economicamente la scelta giusta e poi in realtà si ritrova che magari il cambio non avviene in tempi rapidi e deve pagare quando poi il subentro si concretizza, magari una super bollettona. Rossella, forse anche questo è un altro problema che ha generato qualche titubanza nei passaggi. Sì, un po' di scarsa informazione anche, perché non tutti sono al corrente di questa possibilità che esiste per il settore dell'elettricità da ormai 3 anni, per il settore del gas da 7, tant'è vero che solo nell'elettricità ha cambiato il 10-11% di utenti. Adesso forse con l'arrivo della bioraria, che è stata parecchio pubblicizzata, la bioraria per tutti quelli che non sono passati al libero mercato, allora forse potrebbe esserci un desiderio di informarsi di più, uno stimolo di più anche per trovare magari una tariffa, una proposta che sia più adatta, se per esempio la bioraria non ci sembra adeguata al nostro tipo di consumo. Altro tema molto interessante è quello di individuare la proposta commerciale che fa il caso nostro, il caso della nostra famiglia, però non vorrei che Carlo da Milano pensasse che lo abbiamo liquidato così senza rispondergli. Questo caso di questo ascoltatore, non lo so, Rossella, lo possiamo far indirizzare verso l'ufficio reclami dell'azienda? Credo che lui abbia fatto però già tutto, però Non vorrei che magari comparisse di punto in bianco una società di recupero crediti che gli va contestando che lui non ha pagato in questi due anni quando lui ha fatto tutto. Cosa gli si può dire? Magari ci facciamo scrivere. Ci facciamo scrivere anche allo sportello reclami del Sole 24 Ore del lunedì, da dove possiamo poi contattare la società stessa per capire che cosa è successo. Ricordo però in proposito che per le siccome la società energetica è tenuta a mandare le bollette con cadenza almeno bimestrale, cioè ogni due mesi, in caso di super conguagli l'utente ha il diritto di pagare la rata. Benissimo, ecco, questo non me lo ricordavo, importo. Invece questo è un tema piuttosto importante. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Riprendiamo dal settore delle telecomunicazioni. Ernesta da Imperia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, molto velocemente perché è anche una cosa abbastanza lunga. Io l'anno scorso, nel 2009, essendo già cliente Telecom, però da 5 anni avevo optato per il collegamento internet e le telefonate su una promozione con Tele2. Quindi usavo Tele2, sfruttavo Telecom nell'ora per un'ora bimestrale in zona e mezz'ora sulle intercomunali. L'anno scorso, nel gennaio, Telecom ha fatto una promozione con Alice tutto compreso e quindi io ci volevo aderire, staccarmi da Tele2 e sono iniziate le peripezie che sono durate 9 mesi con minacce di denunce alla polizia postale e ai carabinieri. Addirittura. Ma Ernesta, adesso lei praticamente non... Ernesta, si fermi un attimo, le chiedo che cosa è successo, che non l'accontentavano, nel senso che non rispondevano alle sue richieste. Qual è il punto? Cioè che il punto è che Tele2 non mi dava, diciamo, non mi staccava la linea. Telecom diceva che era colpa di Tele2 e sono andata avanti 9 mesi, mi hanno mandato un promotore che mi ha fatto firmare un contratto che invece era per l'acquisto di un telefono Aladino. Quindi ho dovuto rifare tutta la storia, mi ha detto che lui faceva la pratica, cosa che non ha fatto. Insomma, infine dei conti, al mese di fine settembre sono riuscita ad ottenere da Telecom la linea, diciamo, la quale poi non mi voleva più dare la promozione che io avevo optato il mese di gennaio. Ale, ecco, benissimo. Adesso la situazione qual è, Ernesta? È che Tele2 pretendeva che io pagassi la penale per il distacco, che io era più di 5 anni che avevo il contratto con loro. E invece uno, se disdice entro l'anno, deve pagare la penale. Guardi, 10 mesi di telefonate. Perché ha chiamato i carabinieri, Ernesta? Minacciati che andavo dai carabinieri. Ah, ecco, è stata solo una minaccia. Ernesta, perché grazie. Ho scritto a Mi Manderai 3, ho scritto al Corriere. Oggi parla da noi, Ernesta. Allora, la ringrazio. È un caso limite, dottor Cotugno, quello che abbiamo sentito, o forse un po' più frequente di quello che crediamo, perché le azioni di, si chiamano così se non mi ricordo male, retention che le aziende ovviamente mettono in campo per trattenere la clientela sono aggressivissime e so che voi li punite anche molto frequentemente per questo come autorità delle comunicazioni. Sì, le puniamo quando non sono poste in essere con le procedure giuste. La retention in sé è un qualcosa che noi non osteggiamo perché altrimenti faremmo un danno agli utenti. Perché retention significa che l'operatore dal quale vorrei andare via mi fa un'offerta che io reputo migliore di quella dove voglio andare. E questo quindi è il mercato. Quindi se per sé è qualcosa di buono per l'utente. Le sanzioniamo quando invece sono illegittime, quando appunto si risolvono invece un trattenimento abusivo del cliente. Lei mi chiedeva se è un caso sporadico. Purtroppo in passato non era un caso sporadico, ecco perché abbiamo messo in atto tutta una serie di palliativi per questa situazione, non ultimo il famoso codice segreto, quello che avete ricordato in avvio, per cui ricordiamolo agli utenti, da oggi per cambiare operatore è importante segnalare al nuovo operatore, quindi bisogna rivolgersi sempre al nuovo operatore, segnalando questo codice che si chiama codice di attivazione, codice di migrazione a seconda delle situazioni, comunque è un codice che è obbligatoriamente presente in bolletta. Quindi in fattura da qualche parte c'è scritto codice attivazione, codice e quindi passaggio operatore. A cosa sarebbe servito per esempio ad Ernesta il fatto di avere questo codice? Sicuramente avrebbe evitato il rimpallo di responsabilità tra Telecom e Tele2, perché di fronte al codice di migrazione si ha la certezza che quell'utente vuole passare da un operatore all'altro. Capisco. Va bene, insomma, Ernesta ce l'ha fatta pure con le minacce dei carabinieri, ma in ogni caso diciamo che appunto si ribadisce che questo è un caso piuttosto diffuso. Chissà se ci sono anche dei casi virtuosi. È chiaro che noi adesso stiamo raccogliendo un po' le criticità, le problematicità, però magari se riusciamo cerchiamo anche di intercettare qualche ascoltatore che ha fatto un cambio e si trova del tutto soddisfatto. 800 24 00 24 è ancora il numero verde per prenotare i vostri interventi, e tra pochissimo. Dottor Cotugno, volevo ritornare un attimo a lei, perché alcuni ascoltatori ci stanno dicendo che nella bolletta non è riportato il codice di immigrazione, facendoci e segnalandoci anche i nomi delle società che non riporterebbero nella bolletta. Io adesso non vorrei dirle, ma magari forse non l'hanno trovato. Lei è in grado di dirci su che... angolo della bolletta? Probabilmente non l'hanno trovato, perché alcuni operatori scrivono delle abbreviazioni del tipo CM, cioè è comunque obbligatorio che lo riportino. È un codice di diversi caratteri, sembra un IBAN per intenderci, e al centro c'è il numero di utenza telefonico, quindi comunque si riconosce da questo, sotto questo aspetto. Benissimo, ritorniamo all'energia. Sì, voleva concludere? Sì, no, siccome mi ha chiesto, proponeva anche degli esempi virtuosi. Beh, uno l'avete detto voi, 1500 attivazioni in un anno e mezzo significa che 1500 utenti sono passati da Telecom Italia, quindi dall'operatore incumbent, agli altri operatori. E poi voglio ricordare il problema delle tariffe, come orientarsi, che noi come autorità abbiamo un motore di ricerca, per cui sulla base dei consumi medi giornalieri, in un attimo si calcola su tutte le proposte offerte sul mercato quella più adeguata, quella che fa spendere di meno. E che tra l'altro poi magari il gestore individuato come promotore della migliore offerta deve assolutamente rispettare, non che quando si va a firmare il contratto non deve esserci distanza fra quello che è stato individuato sul motore di ricerca. Ma dottor Cotugno, quello che lei mi cita è uno vostro dell'autorità oppure il supermoney che voi avete accreditato? Ah, ecco, noi però abbiamo accreditato ecco, dopo mesi di valutazioni. No, questo è un tema pure interessante sul quale vorrei fare una puntata. Io so già che mi scriveranno un sacco di persone dopo questa cosa che vado a dire. Vorrei farla appunto una puntata sui motori di ricerca, perché negli ultimi anni sono assolutamente esplosi e proliferati sul mercato, ce ne sono tanti, anche lì bisogna però capire. Però questo è l'unico che noi abbiamo esattamente. Per quello che riguarda invece l'energia e il gas, dottoressa Utili, ricordiamo il vostro trova offerte. Esatto, noi abbiamo il trova offerte che è in piedi da aprile 2008, e in cui i clienti, semplicemente mettendo il loro codice codice diciamo di avviamento postale della località, hanno, e indicando il tipo di contratto che interesse hanno, non so, tipo di scadenza per le fatturazioni e cose di questo tipo, hanno una lista di offerte che sono comparate sulla base della spesa annua. E quindi dopo possono, individuata l'offerta che più loro va meglio per loro, possono aprire e hanno tutti gli elementi di particolare sul contratto e sul prezzo unitario. E tra l'altro mi risulta che i contatti sul sito siano davvero moltissimi, però molti continuano appunto a denunciare che è molto difficile poi capire la tariffa, perché effettivamente poi siamo bombardati di pubblicità. Rossella, magari faccio questa considerazione con te, che di tutte le aziende che ovviamente vanno in televisione e propongono delle offerte assolutamente vantaggiose, però molto spesso non si capisce che l'offerta dell'azienda è riferita solamente alla cosiddetta componente energia della bolletta, ad esempio, ad una voce. Assolutamente, e per quanto riguarda l'energia va detto che la bolletta non è di facile comprensione, ci sono moltissime voci, ci sono poi delle voci che sono fisse, lei nella parte impositiva è fissa, quindi nonostante l'intervento dei vari operatori e dei venditori sulla parte variabile, più di tanto il costo finale dell'energia, del kilowattora, non cambia, quindi questo è anche uno degli elementi che può frenare il passaggio, la concorrenza o anche la voglia proprio di cambiare. Mentre per quanto riguarda la telefonia, bisogna ricordare che sì, ci sono tantissime offerte, ci sono moltissime promozioni e l'utente, appunto il consumatore, può essere così invogliato al cambio proprio da quel tipo di promozione che sembra fatta per lui, che sembra costare molto meno di quella che ha lui in quel momento. In realtà le promozioni valgono per quel periodo, dopodiché bisogna, per valutare la vera convenienza dell'offerta, quanto si pagherebbe alla fine della promozione stessa. Però insomma, guarda, questo è veramente il motivo ricorrente di tutti gli SMS che ci stanno stanno arrivando, sto cercando di scorrerli, e il tema è proprio che non si capisce quale è l'effettivo risparmio che si fa cercando un'altra offerta, quindi la quantificazione è veramente un grande problema. Chissà se con la bolletta trasparente, no, ma poi questo è un altro discorso, di gennaio qualcosa potrà cambiare su questo punto, su questo arrivo. Poi torno con la dottoressa Utili. Abbiamo un'altra domanda di Maria da Reggio Emilia. Buongiorno signora. Buongiorno, rapidissima Maria, perché siamo quasi in chiusura, se ce la fa, grazie. Sì, ascolti, allora, io ho firmato un contratto con l'Eni Energia nel 2007, non me l'hanno attivato, e me l'hanno attivato in luglio quest'anno, ma firmato da loro. Hanno ricopiato tutto e l'hanno firmato loro, in poche parole. Bene, insomma, questi erano persi il contratto e nel giro di 2 anni l'hanno ritrovato, non gli pareva vero, Maria, e adesso non vorrei neanche fare un'accusa di questo tipo a questa azienda, però insomma, e lei ha contestato, Maria, questa situazione? Sì, io ho contestato e poi ho mandato una raccomandata che il contratto non lo volevo. Ecco, e lei, com'è finita la storia? Le stanno arrivando le bollette? È finita che in luglio mi hanno mandato la bolletta, io l'ho pagata quella, ma ci ho mandato anche questa raccomandata nel frattempo, così non mi hanno più contattato. Però non è detto Maria che la storia sia chiusa. Dottoressa Utili, che cosa ne pensa di questa vicenda? Allora, qui bisogna capire per quale motivo il contratto firmato dalla signora non sia, diciamo, se sia bloccato. In ogni caso la raccomandata della signora, che segnala che non ha più la volontà di avere quel contratto, dovrebbe in qualche modo far rianalizzare la situazione dell'energia. La cosa migliore per la signora, se effettivamente non, a parte il passato, con cui punto si può trovare una soluzione gestendolo come reclamo, se non vuole più energia come fornitore, deve fare quello che abbiamo detto prima, quindi cercarsi un altro fornitore o ritornare al fornitore precedente e far gestire il recesso del contratto dell'energia del fornitore precedente, così cambia fornitore. Il perché del ritardo si scopre, diciamo, facendo un reclamo scritto e vedendo Energia che giustificazione dà. Allora, noi stiamo chiudendo, c'erano due ascoltatori in attesa, non riesco a farli intervenire perché altrimenti finiamo fuori tempo massimo. Io ricevo le costanti bastonate da parte dei tecnici, però c'era Massimo da Caserta che voleva intervenire, dottor Cotugno dell'autorità per le telecomunicazioni, per le comunicazioni, che è passato da un operatore ad un altro e nell'ultima bolletta l'operatore che è stato lasciato ha debitato 50 euro per contributo di recesso, è normale, deve pagarlo. Ritorniamo al tema dal quale siamo partiti, allora su questo recesso ci dà un'indicazione pratica su come dobbiamo comportarci, perché lei ci parlava prima del costo giustificato, ma come facciamo a capire se 50 euro per il recesso sono giustificati? Guardi, l'autorità ha fatto un'attività di verifica a 360 gradi e quindi ha stabilito delle tabelle in base alle quali valutare quanto può ritenersi giustificato a seconda dei vari operatori. Adesso dovrei sapere qual è l'operatore. Comunque, rivolgersi all'autorità, la quale può sempre intervenire, oppure al Corecom per risolvere la controversia. Esattamente, organismi dei quali parliamo pochissimo, e so che invece lei, mi ricordo che in una trasmissione nella quale avevo avuto ospite, ci aveva anche sollecitato ad andare da questi organismi che si trovano magari molto più vicini a noi rispetto all'autorità che sta a Napoli. Sono fondamentali, anche che hanno il potere di intervenire anche sulle migrazioni. Benissimo. Quindi, se ci sono degli intoppi, di ordinare, di sbloccare la situazione. Quindi... Benissimo. Devo salutarvi perché è arrivata la sigla. Grazie al dottor Cotugno dell'autorità per le comunicazioni, alla Gabriella Utili per l'autorità per l'energia elettrica e il gas. Rossella, grazie. Ci rivediamo al prossimo dossier. Arrivederci. Salva Danaio torna domani. Buona giornata a tutti.